Libro di Ruth, episodio 12. Una pioggia di benedizioni. Leggo nel libro di Ruth, al capitolo 4, dal verso 13 al verso 16. Così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei, e il Signore le diede la grazia di concepire, e quella partorì un figlio. E le donne dicevano a Naomi: «Benedetto il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome sia celebrato in Israele. Egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli». E Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno e gli fece da nutrice. Un uomo e una donna si sposano e hanno un figlio. La nonna è ovviamente felicissima. Cosa c'è di strano? Apparentemente nulla. Una scena ordinaria. Ma ripensando alla situazione in cui Naomi si era venuta a trovare all'inizio di questo libro, ricordando la profonda amarezza che aveva caratterizzato il suo ritorno a Betlemme, quando addirittura aveva chiesto di non essere più chiamata Naomi, ovvero mia dolcezza, ma Mara, amarezza. Avremmo mai pensato di vederla ancora sorridere con il suo nipotino in braccio? Avvicinandoci alla fine del libro, ci rendiamo conto di come il Signore stava già operando in favore di Naomi, nel momento stesso in cui lei si sentiva solo giudicata da Dio. Quando Ruth aveva deciso di rimanere con lei, Naomi non aveva considerato la sua presenza come un aiuto, ma come un'ulteriore fonte di preoccupazione. Non si era sentita sollevata per la presenza di Ruth, ma era stata profondamente pessimista sul futuro di entrambe. A dispetto di quanto si sarebbe potuto immaginare, la scelta difficile di Ruth si era rivelata il momento di svolta nella vita della famiglia. Ruth aveva riposto la sua fede nello stesso Dio in cui credeva Naomi e si era unita al popolo di Israele. Il testo ci fa notare quanto è stata preziosa la presenza di Ruth accanto a Naomi, attraverso le parole delle amiche di Naomi. «L'ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli». Siamo abituati a pensare al rapporto tra nuora e suocera come ad un rapporto conflittuale, ma coloro che confidano nel Signore possono andare ben oltre questi luoghi comuni. Ruth si era comportata meglio di una figlia, anzi, meglio di 7 figli messi assieme, e il Signore aveva vegliato su quella ragazza dandole ancora la gioia di sposarsi ed avere un figlio, ovvero proprio ciò a cui lei sembrava aver ormai rinunciato quando era rimasta con Naomi. Ma Dio non si era dimenticato di Ruth. Dal suo precedente matrimonio non erano nati figli e non era quindi scontato che Ruth potesse averne. Ma il testo ci indica che fu proprio Dio a benedirla, dandole di avere quel bambino. Il Signore le diede la grazia di concepire e quella partorì un figlio. «Benedetto il Signore!» gridavano giustamente le amiche di Naomi, proprio sottolineando che era stato il Signore a vegliare su di lei e a prendersi cura di lei, anche quando Naomi vedeva solo Dio come il proprio giudice. Il Signore aveva infatti guidato ogni cosa, aveva fatto in modo che Ruth restasse vicino alla suocera, trovasse un uomo disposto a sposarla e le aveva poi dato la grazia di concepire e di partorire quel bambino. Questa storia ci conferma che Dio non abbandona i suoi figli. In questa storia non abbiamo visto interventi soprannaturali di Dio, ma abbiamo visto come Dio può utilizzare persone che si lasciano usare da Lui, come Ruth e Boaz. Ruth rinunciò alla sua vita per stare con la suocera, e Boaz accettò di svolgere il ruolo di riscattatore della famiglia, non badando al proprio vantaggio, ma mostrando amore verso Ruth e verso Naomi. E Dio guidò sapientemente ogni cosa affinché questi suoi figli si incontrassero, si sposassero e avessero un figlio. Davvero, il Signore doveva essere celebrato e benedetto come quelle donne avevano detto a Naomi. Ma le benedizioni del Signore non erano finite. Ruth e Boaz erano stati una benedizione per Naomi, ma ancor di più lo sarebbe stato quel piccolo bambino che ella stava tenendo fra le braccia. Le donne pensavano che quel bimbo sarebbe stato una consolazione e un sostegno per Naomi nella sua vecchiaia, e possiamo essere certi che sia stato proprio così. Ma il Signore aveva in serbo qualcosa di ancora più grande per la famiglia di Naomi. Una vera pioggia di benedizioni che sarebbe andata ben oltre la vita di Naomi. Infatti, come vedremo nell'ultimo episodio di questa serie, quel bambino sarebbe stato davvero speciale.